Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi presento questa sera un insolito libro di storia universale, racchiuso in 15 storie, o meglio, in 15 vite esemplari. Questo è l'ambizioso tentativo di un grande storico italiano, Sergio Luzzatto, che con Einaudi pubblica Una febbre del mondo, 1000 anni di storia in 15 vite, 228 pagine, 13,50 euro. L'opera è coraggiosa, dicevo, ma non è del tutto inedita, perché lo storico riconosce egli stesso il proprio debito a un grande scrittore mitteleuropeo, Stefan Zweig, che scrisse Momenti fatali, questo è un libro del 1927, nel quale egli sintetizzò in 14 episodi e altrettante figure storiche quelli che egli chiamò le ore stellari dell'umanità. Il libro è pubblicato da Adelphi, 306 pagine, 13 euro, ed è tradotto da Donata Berra. Luzzatto aggiunge un personaggio per arrivare a 15, e preferisce parlare di febbre del mondo. Per l'autore, infatti, quando anche volessimo respingere l'idea che il mondo sia governato dalla ragione, come pensava Hegel, non di meno aggiunge da credere che ogni epoca storica contenga, ognuno alla sua maniera, un hegeliano spirito del tempo. Non è detto che questi personaggi siano del tutto famosi. Vediamo i 15 chi sono: innanzitutto Francesco d'Assisi, poi Giovanna d'Arco, poi Gem Sultan, che fu un principe musulmano del XV secolo, che fu al centro di tutto un tramestio delle potenze europee per controllare l'impero ottomano, Bernardino Kino, che fu un predicatore francescano del XVI secolo in odore di eresia, Galileo Galilei, Pietro il Grande, Betsy Ross, la tappezziera che cucì la prima bandiera americana nel 1776, Thomas Alexandre Dumas, un generale francese di colore che è uno dei simboli della lotta alla schiavitù, Ippolito Nievo, Marie Curie, Edmondo Peluso, che fu un attivista socialista e rivoluzionario, Adolf Eichmann, Yuri Gagarin e infine Nelson Mandela e Malala Yousafzai, che è la giovane pakistana che è stata insignita del premio Nobel per la pace nel 2014. Non è detto quindi che i personaggi siano tutti celeberrimi, ma adesso sentiamo il significato di questa scelta proprio dall'autore. Buonasera Sergio Luzzatto. Buonasera. Sergio Luzzatto, il suo libro si apre con un riconoscimento che in fondo è insolito per uno storico di professione quale lei, cioè quello della grandezza di Stefan Zweig, l'autore di Momenti fatali che ho ricordato poco fa, di cui lei vuole ripercorrere il modello. Che cosa l'ha ispirata di Zweig? Ma forse anzitutto mi ha ispirato il fatto che, diciamo così, è uno storico senza le note. Cioè, in realtà, naturalmente Zweig era prima di tutto un romanziere, però ha scritto anche grandi libri di storia, soprattutto biografie, e l'ha scritte fondandosi, come noi storici abbiamo il dovere di fare, sulle fonti, ma senza appesantire il suo discorso con tutto quel sovraccarico, diciamo, di apparato scientifico che delle volte rende il nostro lavoro di storici, per l'appunto, fin troppo faticoso al lettore. E poi lei cerca lo spirito del tempo in queste 15 vite, un'impresa importante, difficile. Ma sì, diciamo, è talmente difficile che non sono sicuro di esserci riuscito. Forse quanto sia difficile lo possiamo anche, come dire, constatare guardando la nostra attualità, no? Cioè, provi a pensare lei come sarebbe difficile oggi scegliere un personaggio come rappresentativo del nostro tempo. E poi lo scegliamo, come si può dire, importante, scegliamo Obama oppure scegliamo l'anonimo attentatore della Promenade des Anglais di Nizza. Lo storico in qualche maniera si deve posizionare così rispetto al passato, o almeno deve provarci. Infatti lei ha anticipato una mia domanda: se per la seconda edizione di questo libro, anzi per l'edizione che scriverà fra 100 anni, che personaggio lei sceglierebbe? Guardi, come si può dire, l'ho anticipato ma senza avere una soluzione. Cioè, io credo che anzitutto una delle cose che io ho provato a fare col passato, diciamo che sarà tanto più obbligata per il futuro, sarà di non scegliere solo uomini ma di scegliere anche donne, ecco. E da questo punto di vista naturalmente anche la nostra attualità, forse addirittura per guardare di nuovo agli Stati Uniti, il nostro prossimo futuro ci consegnerà il primo presidente donna degli Stati Uniti d'America. In generale, ecco, di nuovo, io credo che quando cerchiamo di avvicinarci al passato attraverso le vite dei personaggi, non dobbiamo fare solo come Plutarco, non dobbiamo solo guardare personaggi illustri, non sono necessariamente loro gli unici rappresentativi di un'epoca storica. E di questi personaggi illustri e meno illustri, lei ne ha scelti 15. Qual è quello al quale si è affezionato di più? Ah, non c'è dubbio, Madame Curie. Cioè, diciamo, questa giovane donna polacca, giovane finché è stata giovane, diciamo che cresce in Polonia, E questo è già qualcosa che non tutti noi sappiamo e non tutti sanno. Nella Polonia, che quindi poi significa l'impero zarista, e cresce in una famiglia di intellettuali, ma con pochi mezzi. E sostanzialmente comincia come istitutrice privata nelle più sperdute campagne, della Polonia, della gelida Polonia che dà verso la Russia, e guardi un po', poi arriva con la sola forza dei suoi mezzi intellettuali, della sua determinazione a Parigi, studia chimica, studia fisica, si innamora del suo professore. Lo sposa, da un certo punto di vista diventa più grande ancora del suo professore e marito, e merita prima un premio Nobel, poi un altro premio Nobel, una figura straordinaria di donna dedicata che diciamo rivoluziona la scienza attraverso soprattutto i suoi studi naturalmente sul radio, sul polonio, che è un elemento che prende addirittura il nome dalle sue origini, una donna fantastica, straordinaria, che, diciamo, di cui intellettualmente mi sono innamorato. Poi c'è almeno un altro grande scienziato che è Galileo. Sì, diciamo, io ho molto imparato nel tentativo di, diciamo, nella preparazione di questi libri, perché tante cose che poi ho finito per restituire al lettore, io stesso, prima di leggerle, di studiarle, non le sapevo. Galileo, certo, non è una scoperta di nessuno, è stato il più grande scienziato della prima età moderna. Mi ha colpito di Galileo il carattere, diciamo, spregiudicato, addirittura forse un po' furbacchione, cioè sia nel caso del telescopio, sia nel caso poi del microscopio. Quindi, nel suo sforzo, nel suo tentativo, è riuscito di avvicinare sia l'infinitamente lontano sia l'infinitamente vicino. Galileo, in realtà, in qualche modo era un ladro di brevetti, solo che era un ladro geniale, e la storia ha consegnato il suo nome invece di quello degli oscuri praticoni che avevano inventato l'uno e l'altro oggetto. Il suo elenco si apre con un personaggio popolarissimo, Francesco d'Assisi. Quello di Francesco fu più febbre o più follia? Ma guardi, intanto magari proviamo a spiegare. Io ho cercato di incontrare e di fare incontrare Francesco anzitutto davanti al sultano nel corso di una crociata. Non tutti noi sappiamo che Francesco ha vissuto anche l'esperienza dell'Oriente, dell'incontro con l'Islam, e addirittura è arrivato a mani nude al cospetto di un sultano nel 1219, per l'appunto nel pieno di una crociata. Sì, follia sicuramente, anche febbre di fare le cose. Il mio libro si chiama Una febbre nel mondo per questo, no? Perché cerca di restituire questa febbre che coglie alcuni di noi, nel passato come nel presente, nel tentativo di cambiare il mondo, non necessariamente in bene del resto. Ecco, Francesco che incontra il sultano mi è sembrato in un tempo come il nostro, e che lo incontra in realtà nell'ambito di una crociata, ma a fini sostanzialmente pacifici di dialogo, mi è sembrato in un tempo come il nostro, che è poi il tempo di Papa Francesco, il personaggio giusto con cui cominciare. Poi c'è un personaggio che ci invita a riflettere sul potere, sul governo e sulla modernità, che è Pietro il Grande. Che cosa rappresenta questo personaggio nella sua lista? Ma guardi, forse le sollecitazioni sono tali che mi, diciamo, ispirano fin troppo dei confronti, con l'attualità, no? E proviamo a pensare a Putin, no? Un'altra specie di zar, come la pubblicistica ormai ha preso l'abitudine di definirlo. Putin è un uomo d'Oriente, un uomo d'Occidente, è un uomo, come dire, che ormai si muove sullo scacchiere internazionale secondo le regole di una diplomazia riconosciuta e moderna, oppure è un autocrate che riprende le abitudini della Russia più barbara da un certo punto di vista, anche nei suoi costumi politici e nella maniera di gestire il consenso. Ecco, Pietro il Grande, 4 secoli o 3 secoli e mezzo prima di Putin, è un uomo che ci consente di porre queste domande. Il mio libro, come lei ha visto, è un racconto che poi, più che offrire chissà quante risposte, cerca di sollecitare un massimo di domande. E un massimo di domande lo sollecitano anche i personaggi meno noti. Citiamone solo uno, il Dragone Nero. Ci spiega chi è? Sì, il Dragone Nero era un personaggio, è un uomo della Rivoluzione francese, il personaggio attraverso il quale io ho cercato di raccontare la Rivoluzione francese. Si chiamava Dumas, Thomas-Alexandre Dumas. E il suo cognome dice molto a molti di noi per buone ragioni, perché non era altro che il padre di Alexandre Dumas, il grande scrittore ottocentesco dei Tre Moschettieri e del Conte di Montecristo. Un padre sorprendente perché era figlio, questo padre di Alexandre Dumas, di un nobile francese decaduto che era andato ad Haiti a cercare migliore fortuna e di una schiava nera. E quindi era un meticcio, questo generale poi della Rivoluzione francese, e abbiamo nominato Obama prima, mi ha affascinato molto la possibilità di raccontare la Rivoluzione francese, questo evento fondatore della modernità, attraverso un personaggio che abbiamo nominato Obama prima, è una specie di Obama di 3 secoli fa, sia pure con molti diversi strumenti, diciamo. Infine un'altra donna, una ragazza, Malala Yousafzai, che chiude il suo libro e che ha pagato a caro prezzo la sua febbre. Sì, l'ha pagato davvero a caro prezzo. Malala Yousafzai è una ragazza che adesso forse avrà 18, 19, 20 anni e che ha vissuto davvero una febbre con un'intensità straordinaria. È come se alla sua età avesse già vissuto più vite. Naturalmente è la ragazza che, dopo aver cercato di combattere per la causa dell'istruzione delle donne nella provincia del Pakistan, in cui è cresciuta, è nata e cresciuta, è stata colpita dai talebani di quella provincia ed è sopravvissuta per miracolo attraverso un'operazione neurochirurgica complicatissima che peraltro poi l'ha consegnata al premio Nobel per la pace. Allora, Malala Yousafzai mi è sembrata la persona giusta con cui concludere questa carrellata perché mi sembra che a tutti noi debba risultare evidente quanto la causa delle ragazze nel mondo islamico e le prospettive di acculturazione, di istruzione, di emancipazione delle donne del mondo islamico sia una delle cose che deve più starci a cuore nel rapporto che noi abbiamo, diciamo, oggi con il nostro futuro. Va Grazie a bene. Sergio Luzzatto, autore di Una febbre del mondo. Grazie a lei, grazie a voi. È un personaggio che interpreta un'epoca, certamente Kiki de Montparnasse al secolo Alice Prin, che fu una delle protagoniste della febbrile vita parigina d'inizio Novecento. Ne esce l'autobiografia Memorie di una modella, pubblicato da Castelvecchi, 142 pagine, 14,50 euro, tradotto da Lucia Usellini e preceduto dalla prefazione di Ernest Hemingway, che così ci presenta la protagonista. Kiki era molto bella da guardare. Tanto per cominciare aveva un bel viso e ne aveva fatto un'opera d'arte. Aveva un corpo meraviglioso e una bella voce, quando parlava, non quando cantava. Certamente dominò l'epoca di Montparnasse più di quanto la regina Vittoria non abbia dominato l'epoca vittoriana. Questo è l'unico libro per cui io abbia mai scritto la prefazione e, se Dio mi aiuta, resterà anche l'ultimo. È scritto da una donna che, per quanto ne so, non ha mai avuto un angolo tutto per sé. Se siete stanchi dei libri scritti dalle signore scrittrici d'oggigiorno, eccovi un libro scritto da una donna che non fu mai una signora. Per circa 10 anni, come spesso capita, Kiki fu lì lì per essere una regina, ma questo naturalmente è molto diverso dall'essere una signora. Kiki diventò una delle modelle più famose dell'epoca e conobbe quindi tutti i protagonisti della cultura dei suoi anni e fu anzi compagna di uno di essi, uno dei protagonisti, Man Ray. Quel periodo durò poco e infatti la scrittrice riprese dopo un po' il libro per parlare delle sue avventure americane 23 anni dopo quegli anni eroici a Parigi. Fra i molti personaggi di quella Montparnasse troviamo lo scrittore Jean Cocteau, la cui rivelazione come scrittore risale al 1919, quando fu pubblicato il Potomac, che viene adesso riproposto, anzi proposto per la prima volta in Italia da Edizioni Clichy, 240 pagine, 15 euro, tradotto da Tania Spagnoli. Un libro di parole e immagini. L'autore è 24enne, era già un protagonista della vita culturale di Parigi e questa è una delle opere letterarie più innovative dell'epoca, considerato addirittura un modello per l'Ulisse di Joyce. Un altro personaggio memorabile al quale andrà il ricordo di molti italiani, non soltanto domenica prossima quando si correrà a Monza il Gran Premio di Formula 1, è Enzo Ferrari, che viene raccontato da un grande giornalista sportivo che è stato a lungo direttore del Guerin Sportivo, Italo Cucci, e che ha scritto Ferrari Segreto, il mito americano, è pubblicato da Minerva, 156 pagine, 15 euro. Questo libro approfondisce in particolare l'attenzione che Enzo Ferrari ebbe sempre per il mercato statunitense ed è significativo il confronto di cui parla il libro tra Ferrari ed Henry Ford, che erano divisi su molte cose, dalla politica ai libri. Henry Ford, per esempio, diceva: "Non amo leggere i libri, mi scombussolano la mente", mentre, ricorda Cucci, Ferrari non solo leggeva libri, ma addirittura ne scriveva. Oggi la Ferrari negli Stati Uniti ha una presenza importante anche in borsa e questo rappresenta il coronamento postumo del sogno di Enzo Ferrari, di cui qui viene ripercorsa la vita a partire dal rifiuto nel 1918 della Fiat ad assumerlo. E troviamo tanti episodi, aneddoti, curiosità, testimonianze e immagini di questa lunga e fortunata carriera. E a questo punto sospendiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, proseguiamo adesso con alcuni libri dedicati a viaggi, a mete più o meno insolite ed esotiche, ma partiamo da una meta alla quale molti di noi sono affezionati, la Puglia. Vi segnalo infatti il libro curato da Teresa De Francesco e illustrato da Donato Sciannimanico, che si titola Puglia, visioni d'autore, pubblicato da Progedit, 242 pagine, 20 euro, e questa è un'utilissima e allegra antologia di scrittori pugliesi o di persone, di autori che si sono ispirati alla Puglia. Sentite per esempio dal libro questo brano di un poeta pugliese, grande esperto di letteratura ispanica, Vittorio Bodini, che ci parla di una delle mete imperdibili della Puglia, cioè il barocco leccese. Balconi, un'infinità di balconi in cui un assortito bestiario favoloso o domestico, grifoni, draghi, chimere, capre, asini dalle gorgerine inamidate, con assoluta indifferenza, è messo accanto a figure di monacelle, avventurieri spagnoli, angeli, occhialuti notai, ragazzetti, dame dai seni a coppa di gelato. Tutto quest'arido popolo continua a spiare il transito delle generazioni per le candide vie, dove il tufo mette toni dorati affiorando dalle screpolature dell'intonaco. Tanta dovizia di balconi bellissimi, alcuni dei quali si sporgono inaspettati da costruzioni senza pretesa, e fanno supporre che sia questo il luogo più importante della casa. E a pensarci bene, le donne, al cui uso son destinati, hanno un'anima da balcone, e qui, per buona parte dell'anno, è il loro salotto e il loro giardino. Un viaggio in una Puglia, anzi in un Salento inconsueto ed esterno ai percorsi più battuti, è Chamenechat di Carlos Solito, scrittore, fotografo e regista, pubblicato da Elliot, 188 pagine, 16 euro. Chamenechat è l'incitamento di allettare a mettersi in movimento in viaggio, e a questo ci invita questo libro fatto di storie che si sviluppano a partire da un luogo immaginario, il Paiso, dal quale scopriremo una Puglia inconsueta, appunto, dove potremo anche trovare uno Ionio con l'azzurro più assurdo del mondo. Scendiamo in Sicilia con tre libri, uno su Palermo, a Palermo, il titolo è scritto in un'unica parola, di Carlo Loforti, che è un esordiente nel romanzo, pubblicato da Baldini e Casoldi, 330 pagine, 16 euro, e qui troviamo un signore di scarsa fortuna, ma di spiccate ambizioni filosofiche, che decide di aprire un locale dedicato esclusivamente agli sfincioni, una specialità palermitana, e da questa decisione deriverà una serie di avventure che ci porterà agli angoli più segreti e autentici della città. Invece a Catania si svolge il libro Per una madre di Carmelo Sardo, giornalista e scrittore, pubblicato da Mondadori, 366 pagine, 19 euro. Si parte dal ritorno a Catania del cadavere di un boss mafioso che era rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Questo rientro riapre una drammatica pagina familiare, ossia l'uccisione che era avvenuta molti anni prima della moglie, i cui figli tornano da Roma al seguito della salma. Il ritorno sarà fatale perché ne nascerà un'inchiesta familiare nel mondo della mafia che farà scoprire al protagonista nuove verità, o meglio, quanto sia difficile scoprire la verità. Un esordio narrativo è quello di Salvatore Maira, che è docente universitario, regista e sceneggiatore, che ha scritto 10.000 muli, pubblicato da Bompiani, 750 pagine, 19 euro. Qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale e un giovane commerciante ottiene una commessa importante, fornire appunto 10.000 muli da trasportare da Messina in Grecia a titolo di risarcimento per i danni di guerra. L'impresa è certamente appetitosa, ma più facile a dirsi che a farsi. Ma certo Peppino, che è il protagonista, non si tira indietro e da vita un intreccio ricco di tanti filoni e digressioni, autentici racconti nel romanzo che ci presentano la Sicilia difficile di quegli anni, palcoscenico delle gesta anche del bandito Giuliano. Un bellissimo viaggio in Sicilia, quello nel quale ci accompagna Massimo Onofri, che è un docente di letteratura italiana, collaboratore di vari giornali, che si intitola Passaggio in Sicilia, pubblicato da Giunti, 394 pagine, 18 euro. Qua l'autore riprende la formula che aveva già usato per la Sardegna, dalla quale si parte per recarsi verso la Sicilia, recuperando lo spirito delle camicie rosse che si erano imbarcate da Quarto per Marsala, oltre 150 anni fa. E dall'inizio del libro poi si sviluppano molte tappe che ci fanno riflettere appunto sull'isola della quale, scrive l'autore, nulla mi è possibile vivere con distacco. Un ritratto insolito invece di Roma è quello di Alessandro Mauro, che ha scritto «Se Roma è fatta a scale, stanno alle strade come traverse, però fatte di gradini», pubblicato da Exorma, 166 pagine, 14,90 euro. E qui troviamo diverse mete nella capitale che scopriamo in angoli meno noti, ma non necessariamente, come le tante scalinate appunto sparse in tutta la città che la caratterizzano, e qui descritte con affetto e partecipazione, una descrizione che ci fa riscoprire Roma e riflettere su tanti aspetti della capitale. Sentiamo per esempio queste righe dedicate a quella che è certamente la scalinata più famosa al mondo, e cioè quella di Trinità dei Monti. Vista da lontano, la scalinata di Trinità dei Monti è prospettiva per via dell'infilata che sale dal Tevere e usa via Condotti come mirino, ma da vicino, o meglio ancora da dentro, che vuol dire seduti sugli scalini e possibilmente col sole, è uno stato d'animo, ozio, contemplazione, eventualmente pagnottella. Qui, dove è passato anche Cesare Pavese con versi che annusano l'odore della pietra e dell'aria mattutina, è tutto speciale. Il resto del mondo, se passa per Roma, viene a sedersi su queste scale, patrimonio dei glutei dell'umanità. La scalinata di Trinità dei Monti, che pure come ogni rampa conduce altrove, è un luogo in cui più che passare si sta. E adesso vi presento tre romanzi di ambientazione straniera. Di uno è autore uno dei più famosi scrittori greci, Christos Oikonomou, ateniese del 1970, che ha scritto Dal mare verrà ogni bene, pubblicato da Elliot, 128 pagine, 14,50 euro, tradotto da Alberto Gabrielli. Questo è un libro interessante perché ci porta al centro della crisi greca e dei cambiamenti che questa ha prodotto nelle vite di tante persone. Qua troviamo un gruppetto di ateniesi che, proprio per cercare di attenuare gli effetti di quella insopportabile crisi economica che ha colpito Atene e la Grecia, si trasferisce dalla capitale in un'isoletta dove questo gruppetto non sarà affatto bene accolto, ma dovrà sperimentare le stesse pressioni esercitate dal potere e dai soldi. E sentiamo con che spirito utopico il gruppo di ateniesi affronta la nuova sfortunata esperienza. Guardavamo il mare. Ricordo che guardavamo il mare in silenzio e nel mio torpore mi chiedevo, ricordo, com'è possibile che tante persone rimangano in silenzio per così tanto tempo. E dopo Tassos disse che il bene verrà dal mare, perché il mare non ha memoria, perché l'acqua non ricorda. E disse, ricordo, che anche noi dobbiamo diventare come l'acqua, cancellare il passato, dimenticare il passato e ricominciare da capo. Dobbiamo dimenticare, disse, che quanto ci aveva unito per tanti anni erano i soldi, non importa se rubati o guadagnati onestamente, e quanto ci unisce ancora adesso è il fatto che siamo ormai senza soldi. Dobbiamo dimenticare il passato e trovare qualcosa di nuovo che ci unisca, disse. E disse, ricordo, che questo era il suo più grande sogno e la sua più grande angoscia. Trovare qualcosa che ci avrebbe uniti al di là dei soldi. Dello stesso autore, Christos Oikonomou, sempre Elliot pubblica Qualcosa capiterà, vedrai, 160 pagine, 13,50 euro, tradotto ancora da Alberto Gabrielli, che è un libro precedente del 2010 ed è una serie di racconti che fotografano la situazione venutosi a creare negli ultimi anni in Grecia, con una serie di personaggi che simboleggiano il lento e inesorabile degrado delle condizioni di convivenza. Un quasi coetaneo di Oikonomou è Philippe Fusaro, di origine pugliese ma nato in Lorena, che propone con Edizione Clichy Amare stanca, 162 pagine, 12 euro, tradotto da Federico Zaniboni. Qui siamo a Tangeri invece, all'inizio dell'estate, dove agiscono i protagonisti, che sono una spia nostalgica di Palermo e dell'amore che vi ha lasciato, uno scrittore americano e un'affascinante attrice italiana, che intrecciano le loro vite e i loro amori nelle settimane che vanno dall'estate all'autunno. Una storia scritta con uno stile particolare, quasi una nenia fatta di frasi brevissime e martellanti. Infine un romanzo di ambientazione italiana, qua siamo in Italia centrale, con una delle più interessanti scrittrici contemporanee, Rosa Matteucci, che ha pubblicato Costellazione familiare, pubblicato da Delphi, 168 pagine, 16 euro. Troviamo nel libro una famiglia scombinata, quella dell'autrice, di origine altoborghese, in parte aristocratiche, rovinata dal demone del gioco del padre. La figlia ne racconta le vicende, amare ma con frequenti tratti addirittura umoristici, e segnate soprattutto dal rapporto con la madre, la quale, pur rassegnata ai rovesci economici, non rinuncia fino alla fine a far valere alcuni tratti dell'antico lignaggio. Fra le due donne c'è anche un piccolo cane che è accudito come un bambino dalla madre, la quale metterà a dura prova la sopportazione della figlia quando si ammalerà. Ma sarà proprio questa fase a far recuperare in estremis lo struggente rapporto di amore tra le due donne, che così la scrittrice, voce narrante del libro, descrive. Finalmente capisco quanto io sia stata arrogante, quanto la mia vita appaia desolata senza di lei. L'amore non è un hortus conclusus, è un opus incertum, non è circolare, a linee di fuga in cui ci ritroveremo. Si apre un cuore, ti lascio andare dove sei tu. Ultimi arrivi. Di Marco Revelli vi segnalo Non ti riconosco, un viaggio eretico nell'Italia che cambia, pubblicato da Einaudi, 252 pagine, 20 euro, da Torino a Lampedusa, un viaggio in un paese nel quale l'autore si accorge di essersi perso o di non ritrovarsi. È il segno di una nuova vitale accelerazione del tempo, così la definisce, che si differenzia dalle precedenti perché segnata da una perdita di direzione che lo scrittore affronta nelle sue tappe. Poi vi parlo del romanzo di Evita Greco, che soffre di dislessia, la quale ha deciso, quando le fu diagnosticato la malattia, di leggere moltissimi libri e di scriverne almeno uno. E adesso questo libro esce, si chiama Il rumore delle cose che iniziano, pubblicato da Rizzoli, 328 pagine, 18 euro. È un libro che ha suscitato molto interesse all'estero e racconta l'avventura di una ragazzina che, attraversa la malattia, scopre appunto che certe cose, quando iniziano, fanno rumore. E infine il titolo di un grande classico che non smette mai di sorprendere, Georges Simenon, di cui Adelphi propone adesso Il passeggero del Polarlis, 158 pagine, 17 euro, tradotto da Anna Maria Carenzi Vei. Sulla rotta Amburgo-Norvegia, la Polarlis sarà teatro di una serie di eventi sconvolgenti che confermano le diffidenze iniziali del capitano Petersen. Questo è un libro che Simenon pubblicò a puntate su un giornale nel 1930 e un paio d'anni dopo pubblicò come libro per la prima volta con il suo nome. Prima si era firmato semplicemente Georges Sim. E a questo punto il confettino. Partendo da una spiaggia si può mettere in viaggio anche un elefante, almeno questa è l'avventura descritta in Piccolo elefante va in Cina di Cécile Joslin, illustrato da Leonard Weisgar e tradotto da Carla Ghisalberti per Orecchio e Cerbo, 13 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.